coppia. Miti e verità dello sport. Di Dario Ricci. Barcelona! Barcelona! Secondi alla fine di questo supplementare. Marco D'Altrui, Carlo Campagna chiama i suoi compagni. Ferretti, attenzione, non si era preso il passaggio, poi resta in possesso, c'è il fallo, peccato, si fosse girato subito poteva andare al tiro, poi è Gandolfi, è gol Gandolfi, e questa volta è il nostro attaccante che pulina le braccia in aria in segno di soddisfazione, di gioia per questo gol che riporta finalmente l'Italia in vantaggio. Blocca il risultato, 9-8 per gli azzurri. Ancora la Spagna in avanti, 12 secondi, 11 da spendere. Servito il centrovolta, c'è un fallo, adesso gli arbitri probabilmente chiameranno tutto in favore degli spagnoli. Vedete, appena il pallone arriva nella loro zona viene fischiato un fallo a favore. Rudic ancora una volta raccomanda ai suoi di tenere gli avversari lontano dalla linea di porta. E Manuel Fiarte che ha dato e da Torreza respinge il pallone degli spagnoli. Davvero da brividi rivivere quella leggendaria finale di Barcellona 92, il 7 bello, l'emblema dell'Italia della pallanuoto che va a strappare un oro che sembrava già assegnato agli spagnoli padroni di casa sotto gli occhi di re Juan Carlos, che era arrivato a Barcellona per vedere la propria nazionale trionfare in acqua, e invece no, quell'oro ce lo prendemmo noi. Beh, emozioni straordinarie, no, professor Stefano Tirelli, mio compagno di viaggio quest'anno a Olimpia. Professore, se lo ricorda dove la vide quella partita? Sì, lo ricordo benissimo perché ero in una casettina piccola di montagna a tenere compagnia a mia nonna, che era da sola, e quella sera ricordo che vissi una delle esperienze più belle, più emozionanti dal punto di vista sportivo della mia vita. Allora, credo proprio che sarà altrettanto emozionato nel trovare ospite di Olimpia uno di quei protagonisti, allora in acqua e oggi commissario tecnico del Sette Bello della Pallanuoto. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport, a Sandro Campagna. Che bel nome, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Coach Campagna, a ripensarci ancora oggi a quel trionfo del 92, viene ancora la pelle d'oca, eh? Ma quando uno già partecipa ad un'Olimpiade, uno ha un'immagine che si porta dentro tutta la vita. Immaginiamoci quando vince l'Olimpiade. Rimanendo in tema del nome della tua trasmissione, io quando ho lavorato in Grecia 6 anni non potevo non andare ad Olimpia e andare a vedere la città dove sono nate le Olimpiadi, ed ha un fascino tutto particolare. Questa dimostrazione che l'olimpismo è dentro di me. Io ne ho avuto la fortuna di parteciparne a 9, sotto varie forme, tra atleta, allenatore, vice allenatore, e devo dire che è una grandissima soddisfazione. Barcellona, che ti devo dire, quando vinci, io quando stavo andando sul podio olimpico insieme ai miei 12 grandissimi compagni di squadra, mi sono passate tutte le immagini quando ero ragazzino, e quando ero ragazzino a 14 anni, quando vidi la prima Olimpiade in televisione nel 76 a Montreal, dissi ai miei familiari che erano vicino a me: io voglio salire sul podio a 14 anni. Per cui quando stavo andando a sentire l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio, non puoi capire la grande gioia e felicità. In quel momento tocchi il cielo con un dito, è una gioia immensa che come picco di gioia non ne ho passato in vita mia, insomma. Un'immagine che più di altre le rimane viva nella memoria? Conservo l'immagine della grande coesione di squadra, della grande forza nel imporre il nostro ritmo, il nostro gioco all'inizio, andando avanti anche 4-1, siamo andati sempre avanti, e nonostante c'è stato il recupero dell'avversario, che loro pareggiarono a una ventina di secondi dalla fine del tempo regolamentare, siamo andati supplementari e siamo andati pure sotto. Lì abbiamo avuto la forza di ribaltare il risultato, e da lì in poi io credo che non lo so, poteva durare pure 14 tempi supplementari, perché all'epoca si andava in coppie di tempi supplementari avanti, per cui se noi non avessimo fatto gol a 32 secondi dalla fine del sesto tempo supplementare si andava a 8, 10, 12, 14, ma lì quella partita non l'avremmo mai persa, perché c'era una forza mentale incredibile. Un trionfo quello legato in modo indelebile al nome del vostro allenatore, il croato Ratko Rudic. Quella è stato un percorso straordinario, perché noi venivamo da anni di grandi piazzamenti, il secondo posto ai mondiali 86, il terzo negli europei 87-89, fallimmo Seul 88 alle Olimpiadi, era una squadra già competitiva allora, ma arrivammo settimi, e nel fine 90 arrivò Rudic, dove nel 91 iniziamo un lavoro, un percorso veramente massacrante per una squadra talentuosa, ma che doveva crescere sotto il profilo psicologico, sotto il profilo della tenuta mentale, sotto il profilo della gestione dello stress nei momenti determinanti. E lui è stato molto bravo a cambiarci questo tipo di mentalità, anche andando a rompere quello che erano i nostri equilibri. Ci sono stati dei conflitti tra noi e lui, e soprattutto all'inizio. Poi con grande intelligenza reciproca ci siamo venuti incontro e ci siamo adattati ai suoi metodi, e lui si è adattato molto alla nostra mentalità. Accennava, coach, a contrasti e metodi innovativi. Ci sveli qualche segreto di quello spogliatoio? Ma io la cosa che più mi rimase impresso era appunto questa regolamentazione della giornata. C'erano dei ritmi incredibili e tu dovevi seguirli, questi ritmi, per cui anche la fase di riposo era una parte dell'allenamento. Poche distrazioni. Lui disse una frase, quello era il periodo dei primi telefonini, no? 92, i primi cellulari. Ricordo che lui venne in camera a sequestrarci i telefonini, perché lui diceva: ma chi vi telefona? Le fidanzate, le mogli? Vabbè, se vi amano vi devono lasciar riposare, quindi vi prendo il telefono io, casomai ci parlo io. I risultati poi però si sono visti. È venuto fuori una preparazione dura, una preparazione con tante partite, una preparazione dove ci ha portato ai limiti dello stress fisico e soprattutto mentale, però facendoci lavorare così duramente noi all'inizio non eravamo per nulla brillanti nella prima parte delle Olimpiadi. Noi abbiamo faticato la prima partita contro l'Ungheria, pareggiamo 9-9 e forse meritavamo pure di perdere. Poi abbiamo faticato la seconda partita con l'Olanda, la terza con Cuba, se perdevamo eravamo quasi fuori. Perdevamo 8-5 a fine terzo tempo e abbiamo vinto di 2-3 gol, vincendo 5-1 mi sembra l'ultimo parziale, a dimostrazione del fatto che abbiamo iniziato a capire cosa significa la sofferenza durante la partita e l'abbiamo gestita, quel momento di stress, con grande naturalezza, ribaltendo un risultato che ci avrebbe portato fuori dalle Olimpiadi. Abbiamo giocato con la Spagna la prima partita delle eliminatorie e poi con la Grecia, vincendo e giocando male, ma da lì in poi c'è stata una semifinale e una finale straordinari, quindi siamo venuti fuori nel momento opportuno, nel momento importante, e credimi, noi lo stress e la tensione in quelle due partite, semifinale e finale, non lo sentivamo. Erano quelli gli anni di Velasco nella pallavolo, di Sacchi nel Milan, di Rudic proprio nel Sette Bello. Ecco, che eredità ha lasciato quell'allenatore? Ma guarda, tutti quei giocatori che sono venuti fuori da Rudic, anche quelli che poi non hanno vinto l'oro olimpico, comunque siamo venuti fuori con una certa mentalità. E chi è che fa l'allenatore di quella squadra o dei ragazzi che successivamente dopo hanno preso il posto di noi vecchietti, sono attualmente dei grandi allenatori. Perché oltre la tecnica e la tattica, lui quello che ha portato è la professionalità innanzitutto della figura dell'allenatore, cosa che in Italia all'epoca non era così forte. E grazie a lui e grazie a Velasco la figura dell'allenatore è ridiventata centrale nell'organizzazione sportiva, e adesso sta rifacendo fatica attualmente lo sport italiano, la figura dell'allenatore è messa un po' di lato, e questo Rudic lo ha fatto, ha preso in mano a 360 quadri la federazione e l'ha rivoltata come un calzino, come si suol dire, e chi ha vissuto con lui ha capito che la sua bravura era anche questa. Forse tatticamente era la parte meno forte del Rudic allenatore. Quello dove era bravissimo era l'organizzatore, il programmatore, la visione che aveva, i metodi che usava per arrivare a certi risultati, per portarti all'eccellenza. L'importanza, ha dato importanza allo staff tecnico, ha dato importanza alle innovazioni tecnologiche, stiamo parlando degli anni 90. Quindi ha stravolto la mentalità di tutti noi, e chi è passato dietro di lui si è portato dietro qualcosa di grande dentro, che secondo me lo mette poi al servizio della propria attività. Beh, davvero una grande opportunità oggi per noi che siamo in sala macchine qui a Olimpia, ma immagino anche per gli ascoltatori, poter chiacchierare con Sandro Campagna, e non solo di ricordi ma anche e soprattutto del suo modo di vivere ancora oggi lo sport e l'olimpismo. Allora, professor Tirelli, prendiamoci adesso una breve pausa, poi vi aspettiamo ancora qui a Olimpia, la città dello sport, in compagnia di Sandro Campagna. Olimpia, miti e verità dello sport. Nove, otto, nuotano col possesso palla i giocatori del Settebello, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, la sirena, alza il pallone, è proprio Cristian Presciutti, autore di 4 reti in questo match, 3 ne ha fatti Valentino Gallo, si tuffano in acqua i giocatori dell'Italia, anche Sandro Campagna vestito come da tradizione, l'Italia in medaglia di bronzo, 12-10 il punteggio finale, fanno festa gli azzurri, che grande olimpiade della pallanuoto italiana, 7 rosa, medaglia d'argento, 7 bello, medaglia di bronzo col successo sul Montenegro. Ancora insieme qui a Olimpia con Sandro Campagna, oro olimpico nel 1992 e ora allenatore della nazionale maschile di pallanuoto, bronzo a Rio 2016 dopo l'argento di Londra 2012 contro la Croazia di Rudic, proprio il tecnico degli azzurri in quel glorioso 1992. Coach Campagna, ecco, verso Tokyo 2020 a che punto siamo? Guarda, io penso che il sesto posto degli mondiali di Budapest sia assolutamente bugiardo, perché il valore della squadra è nettamente superiore. Purtroppo talvolta capita che il risultato è il frutto di tante circostanze, e talvolta quest'estate le circostanze non sono state favorevoli, ma noi non ci siamo mai creati degli alibi. Io parlo in maniera molto obiettiva, la squadra è competitiva, la squadra è forte, sono convinto che già dal prossimo europeo diremo la nostra in zona medaglie. Ho già prospettato ai ragazzi al primo raduno dell'anno quello che è la nostra pianificazione, il nostro progetto di come arrivare a Tokyo 2020, e ho visto che gli brillavano gli occhi. E ho anche detto una frase molto importante: a Tokyo non si vince nell'estate del 2020 o un mese prima della preparazione o due mesi prima quando inizierà la preparazione. A Tokyo si vince oggi, a Tokyo si vince quando ognuno di noi cerca di migliorare un pochettino oggi, e magari fra 3 anni il miglioramento sarà notevole, e adesso non ce ne accorgiamo magari, però deve essere quotidiano. Quotidiano come anche lo studio per i più giovani. So che lei è molto attento a questo aspetto. Questa è una cosa a cui veramente tengo moltissimo. Oggi sono reduce da una riunione con dei miei collaboratori dello staff, dove abbiamo fatto il punto della situazione sulla situazione studi dei nostri giocatori, della nostra rosa, tra chi va già in università e chi è che non fa niente, e stiamo proponendo loro di fare di iscriversi quantomeno nelle università online, per avere l'opportunità di studiare anche se sei in collegiale, di tenere la testa impegnata per due cose. Primo, perché un domani, anche se ti laurei, hai qualcosa di studi con te quando finirai di giocare, è un qualcosa che ti può rimanere, ti può tornare utile. Secondo, io ne sono assolutamente certo che se un atleta di alto livello studia, diventa ancora più bravo. Poi però le tocca comunque sempre lasciarne a casa qualcuno. Sì, la spiegazione di lasciare a casa è terribile. È terribile sicuramente all'inizio di un nuovo ciclo, ma spesso purtroppo devo fare delle rinunce anche a ridosso di un'Olimpiade. Che uno si è fatto 3 anni, 4 anni di selezione, di mondiali, di europei, e poi magari gli preferisco un altro che in quel momento è più utile alla squadra. quindi è un compito ingrato quello di noi allenatori. Per quanto riguarda la programmazione, beh, è chiaro che quando si lavora su un quadriennio un allenatore non può non avere un minimo di lungimiranza. Per cui mi chiedo chi all'indomani di Rio, della medaglia di bronzo di Rio, mi chiedo chi potrà arrivare di loro a Tokyo 2020 e come ci arriverà, che ruoli giocano, chi c'è dietro. Andiamoli a vedere questi ragazzi, dove giocano nel loro campionato, giocano le coppe europee, hanno bisogno di una maggiore vetrina internazionale, quindi è necessario che facciano maggiore partite internazionali, quindi sono tutte considerazioni che inevitabilmente faccio insieme ai miei collaboratori per ripresentarmi alle Olimpiadi successive con una squadra competitiva. Così lungimirante, coach, da immaginare già anche un suo erede? Beh, sì, io credo di aver creato un sistema di produzione che, anche se non ci sarò io, se si continua su queste basi, può continuare a essere in auge. Farò di tutto fin quando io, l'ultimo giorno del mio lavoro come commissario tecnico, lavorerò come se dovessi stare altri 10-15 anni. Questo perché voglio sempre che il Sette Bello sia una squadra vincente in Italia e nel mondo. Poi nei miei collaboratori c'ho Amedeo Pomiglio, che è il mio assistente, che è stato campione olimpico con me e che è il mio vice da diversi anni e che sicuramente ha attinto tanto dalle mie conoscenze, dalle mie esperienze, ed è in grado un giorno di camminare da solo. Come nei settori giovanili ho messo quest'anno Carlo Silipo, che è un altro campione olimpico. Non ho paura di mettere gente brava a fianco a me, perché prima di tutto sono sicuro delle mie capacità, e dopodiché se qualcuno di loro assimila qualcosa di importante nel continuare una scuola italiana, ne sarei soltanto che felice. Sandro Campagna, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie Dario, grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori e grazie al nome della tua trasmissione. Davvero un campione che in tanti ruoli, da giocatore e ora da tecnico, sta dando molto allo sport italiano, Sandro Campagna, vero professor Tirelli? È una persona che ha dimostrato di avere una visione a lungo termine, lungimiranza. Sapeva accettare quello che era il concetto di sforzo, forza mentale, quindi sottoporsi anche a allenamenti duri fisici, come lui stesso ha detto, e soprattutto è una persona che è capace di interagire con l'esterno, col gruppo, come forse tratteremo anche questo argomento. Sicuramente direi interessante anche il tema dell'eredità, no? Allenato da un grande tecnico come Rudic, Campagna, che pure da giocatore con questo tecnico i suoi contrasti li ha avuti, poi ne ha saputo riconoscere in Rudic stesso un maestro. Beh, direi non è attitudine proprio scontata, È attitudine però delle persone molto intelligenti che vedono nell'antagonista una possibile risorsa per poter attingere dallo stesso quell'esperienza, quella fonte di conoscenza, ed è anche quindi un atto di umiltà sapersi riconoscere nei propri limiti e, pur nello scontro civile con una persona, riconoscerne invece i valori e le qualità. Mi è piaciuto anche il ragionamento che ha fatto rispetto ai collaboratori. Di solito, ahimè, forse vizio italico è quello di circondarsi di mediocri per essere primus inter pares, no? Campagna fa un ragionamento ben diverso, cioè mi circondo di ottimi collaboratori, uno perché non ho insicurezze da nascondere, ma soprattutto perché se sono bravi loro vuol dire che sono bravo io, ma anche che posso migliorare attraverso l'interazione. Però ci riportiamo sempre al concetto di intelligenza, perché io posso migliorare solo nel momento in cui ho intorno o di fronte a me elementi di prova. Se voglio capire quanto valgo, non ho pozioni magiche che arrivano dall'alto, ma ho esclusivamente la capacità di sapere e di riconoscere la mia stima, l'autostima, quindi il valore, solo attraverso delle esperienze di confronto, e anche dure. Se ho dei collaboratori preparati, sono necessariamente portato a dovermi migliorare, confrontare, e posso sicuramente anche apprendere, perché tutti i grandi leader hanno sempre avuto intorno a sé delle competenze, delle qualità di persone che hanno saputo dare quello che gli altri non hanno. Noi non abbiamo tutto, non abbiamo tutta la conoscenza, e quando riconosciamo nelle mancanze di ognuno di noi quello che potrebbe essere invece la risorsa dell'altro, ci interagiamo con gli altri, quindi l'integrazione è anche in questo caso un sinonimo di evoluzione. Ultima riflessione sul tema giovani. Campagna dice: io li faccio giocare, ma perché con i giovani voglio vincere, cioè non vado a costruirmi un alibi per dire vabbè, tanto abbiamo perso ma erano giovani. Anche qua mentalità sfidante, no? Sfidante, mentalità internazionale da parte di molti all'estero. C'è la volontà di dare ai giovani, che non vengono visti come limiti ma come risorse, le possibilità di esprimere tutte quelle caratteristiche di dinamismo, di sana inconsapevolezza, di coraggio soprattutto. Il giovane generalmente è meno razionale e quindi sprigiona quell'incoscienza che però sfiora molto il concetto fondamentale che nello sport e nella vita dobbiamo avere, che è proprio quello del coraggio. Il giovane è visto da Campagna come risorsa, è visto e deve essere valorizzato, e poi è pragmatismo puro, perché il giovane è quello che ha più energie da spendere. L'esperienza è importante, ma in una squadra ci deve essere un equilibrio tra chi ha esperienza e chi ti deve dare una mano nei momenti decisivi. Ricordiamo che i supplementari, tutte le partite meravigliose di quel Settebello in Spagna hanno dimostrato che all'ultimo secondo ci voleva quella forza mentale in più, quell'energia in più che viene spesso data dai giovani. E beh, insomma, direi che il Settebello è in buone mani, sia nel presente sia soprattutto per quella che è la tradizione che si porta dietro, no? Insomma, quei sette ragazzi in acqua davvero non sembrano mai da soli, proprio perché c'è anche il valore della storia che entra in acqua con loro. Davvero, davvero bello oggi aver ospitato Sandro Campagna, così come sempre piacevole, professor Tirelli, trovarla qui a mio fianco. L'aspetto allora domenica prossima con un altro campione che vedo già avvicinarsi all'orizzonte, alle mura perimetrali di Olimpia, la città dello sport. Beh, il piacere è sempre reciproco, e poi io invito sempre tutti, grande grande energia, e grazie Dario e a tutti i radioascoltatori. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.